Intesa San Paolo, Official Global Banking Partner di Expo Milano 2015. Vi presenta. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Few people are willing to put themselves in peril to ensure that we are all free to say what we believe. Charlie Hebdo's current staff have persisted, and tonight's award reflects their refusal to accept the curtailment of lawful speech through violence. Andrew Solomon, presidente di PEN, che sta per penna naturalmente, ma è anche una grande associazione letteraria americana che protegge, ha come missione quella di proteggere la libertà di stampa, la libertà di espressione dei giornalisti, degli scrittori. E Andrew Solomon, che è a sua volta un grande scrittore, l'ho anche intervistato qui ad America 24, dice: poche persone sono disposte a mettersi in pericolo per assicurare agli altri la libertà. E il premio di questa sera riflette il rifiuto di Charlie Hebdo di accettare la riduzione della libertà di parola attraverso la violenza. Ecco, è stata una serata, devo dire, molto bella quella dell'altra sera al Museum of Natural History, il Museo di Arte Naturale qui a New York, una colossale costruzione, e c'era questa sala dove c'è la grande balena sospesa per aria che è attaccata al soffitto con circa 700 persone, ed erano tutti a celebrare appunto Charlie Hebdo in nome della libertà di stampa, della libertà di espressione. C'è stata anche una certa polemica, devo dire, in relazione a questo premio. Un centinaio di iscritti al PEN, di scrittori, di giornalisti, si sono opposti e non sono venuti alla serata perché dicevano che Charlie Hebdo in realtà portava un messaggio di divisione e attaccava l'Islam. La cosa che mi ha colpito, la cosa che mi ha interessato quella sera è che, arrivando al Museum of Natural History, insomma, sembrava di essere in stato d'assedio. C'erano poliziotti coi cani e a un certo punto è arrivata una camionetta della polizia, dalla quale sono sbarcati una SWAT team, una ventina di poliziotti in uniforme militare, tutti vestiti di neri, coi caschi, con le mitragliette, e sono scesi di corso e si sono appostati in posizioni chiave. Ecco, non mi era mai successo di andare a un evento di questo genere per una celebrazione filantropica come era quella dell'altra sera, e di vedere questo stato d'assedio. Perché? Beh, perché appena pochi giorni prima c'era stato l'attentato a Dallas. E che cosa è successo quella sera? Che tutti ne parlavano, e devo dire che il messaggio comune che percepivo fra molti di questi intellettuali era: beh, insomma, qui dobbiamo difenderci come si può, ormai stanno arrivando in casa questi terroristi, dunque benvengano anche le attività della National Security Agency, benvengano le attività di monitoraggio Meta, cioè su tutti i dati disponibili, su tutte le telefonate disponibili, perché la nostra sicurezza è più importante della nostra privacy, e dopo tutto, chissà, magari possiamo anche fidarci del governo. Ecco, un anno fa non era così. Un anno fa, c'erano forti polemiche, a partire dalle polemiche in Europa, quando ci furono le rivelazioni di Snowden, lo ricorderete, ci fu una levata di scudi, qui gli Stati Uniti stanno spiando su tutti, è uno scandalo, a partire da Angela Merkel. Sentiamola. Ja, ich will noch mal vorne wegschicken, wenn das, was jetzt im Raum steht, und es wird ja noch vom Generalbundesanwalt vieles untersucht, den Tatsachen entspricht. Ecco, che cosa è successo però in questi ultimi giorni? Che anche dalla Germania sono venuti messaggi in realtà in contrasto con quella posizione di un anno e mezzo fa. E cioè che, in fondo forse è meglio difenderci, è meglio cercare di giocare d'anticipo sulle attività di questi terroristi. Abbiamo visto come l'ISIL via internet comunicava con i due attentatori che sono poi andati a fare l'attentato, per fortuna fallito, a Dallas. E qual è la notizia dell'altro giorno, di ieri, di avantieri? E cioè che i servizi segreti, questa ce l'ha rivelata Spiegel, i servizi segreti tedeschi, che è la BND controllata direttamente dalla Merkel, in realtà sta aiutando NSA, e sembra che abbia aiutato addirittura la National Security Council a spiare il governo francese e la Commissione europea. Lo stesso è successo in Francia, perché l'attentato a Charlie Hebdo ha chiaramente cambiato completamente l'umore dell'opinione pubblica. Il Parlamento francese ha approvato poco tempo fa una legge che rafforza i poteri dei servizi di sicurezza, i poteri dell'intelligence. L'obiettivo è di prevenire nuovi possibili attacchi terroristici. Naturalmente ci sono state delle critiche, dei gruppi politici hanno soprannominato la legge French Patriot Act. Il Patriot Act, vi ricordo, è quella legge che consente alle autorità americane di avere mano libera nello spionaggio anche interno per fini di sicurezza. Ecco, questo è il contesto, un cambiamento di umore dal Museo di Storia Naturale alle grandi capitali europee, da Berlino a Parigi. Eppure in America che cosa è successo? Sentiamo. Well, a federal appeals court ruling today involving the legality of the NSA's data collection of phone records. Ecco, c'è stata una notizia sorpresa. La Corte d'Appello di New York, che è il più alto organismo della magistratura americana finora investito del caso NSA, perché ci sono state varie denunce qui negli Stati Uniti, ha deciso che il programma di spionaggio della National Security Agency è illegale. Raccolta dati attraverso le telefonate di milioni di cittadini statunitensi è illegale. In che senso illegale? Nel senso che non è, secondo questi giudici, direttamente autorizzata dal Patriot Act, cioè da questa legge che fu proposta da George W. Bush e poi confermata da Barack Obama, che attribuisce al governo americano, alle forze di intelligence americane, dei poteri speciali per proteggerci tutti dal terrorismo. Infatti Barack Obama ha detto: ma noi questo lavoro lo facciamo anche per gli europei, lo facciamo per tutti, non è soltanto per noi, e così via, così via. E dunque però il giudice Gerard Lynch, in una sentenza di ben 97 pagine all'unanimità, hanno deciso che questo modo di raccogliere informazioni in modo bulk, cioè all'ingrosso, agendo su milioni e milioni di persone, è illegale. E dunque, è un po' un controsenso, secondo me, perché in realtà ci rendiamo conto, soprattutto dopo il fallito attentato che c'è stato a Dallas, che il pericolo per gli Stati Uniti è clear and present, come diceva un vecchio giallo, cioè è chiaro ed è molto attuale, è presente. E allora il governo cosa farà? Farà ricorso, perché ovviamente non vogliono avere un periodo buio in cui non potranno raccogliere questi dati. Però c'è questa sezione 215 del Patriot Act che sembra essere, secondo questi giudici, in contrasto coi diritti degli americani. E che cosa succederà? Beh, secondo me la soluzione, perché non si può andare indietro a questo punto, è che saranno i membri del Congresso stessi a modificare la legge, a modificare questo articolo e a far sì che, sulla base dell'opinione di questi giudici, le modifiche vengano apportate in modo da far sì che tutti noi, così come lo volevano gli intellettuali al Museum of Natural History a New York, possiamo, come dire, sentirci protetti e rinunciare a una percezione di libertà in cambio di sicurezza. Beh, io almeno la penso così. Sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, direi restiamo in tema, e mi è venuta in mente la canzone dei Cold War Kids, i ragazzi della guerra fredda, con la loro canzone Against Privacy. We don't gamble, we don't do the stock exchange, we paint paintings, we write scenes for the stage. We will talk about welfare, we will talk about sex, talk about the Pope and Prada shoes. Nobody gets upset, nobody gets upset. And we're waiting, we're waiting for your call. We're against privacy, we're against privacy. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. Intesa San Paolo, official global banking partner di Expo Milano 2015. Vi ha presentato America 24.